Numéro un per cas. Super francese. Numero un per ca. Chi maroterca. E dopo tu maroterka, no, générique le rian. Si me romperka. Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi. Continuiamo con le romanticherie, le valse d'Amélie. E che na mettami lì. Thank you. E dopo Melì vi saluto con una bella traccetta di Nicola Cruz. Non c'entra niente con Francia, però è tanto bella. Individuality Rhythm. L'ho detta male, ma è uguale. Yeah. siamo arrivati ai saluti. Salutiamo tutti quanti, salutiamo tutti i miei amici che stanno qui dietro, che adesso non si fanno sentire perché stanno facendo i timidi. Ciao a tutti e tutti di Radio Risacca, al prossimo sabato. Radio Risacca.